later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, mentre nella fabbrica di polli la situazione di sbattimento è precipitata, Kappa e Drago parlano di shopping compulsivo. Bravo! Hai appena comprato un telescopio su eBay. Buona perlustrazione. Bravo! Ho capito, bravo Kappa, però quante cose stai comprando? Shopping compulsivo, Drago, shopping compulsivo. Che meraviglia. È una cosa che ti fa venire l'ansia e poi che te la fa passare solo se compri un oggetto. Questa cosa, ho capito. Questa cosa. Praticamente ogni stato emotivo negativo viene trasformato in un acquisto. Ho capito. Anche se non hai più soldi, non importa, anche se la cosa che compri non ti serve, anche se mentre digiti il codice della tua carta di credito sul computer ti stai già dando del cretino da solo, capito? Ho capito. È un altro successo della fabbrica di polli. Sì. Però la cosa stupefacente è la docilità che l'essere umano dimostra a diventare vittima di dipendenze sempre nuove. Adesso c'è la dipendenza da PlayStation, da internet, da telefonino, da telefilm. Come da telefilm? La dipendenza da telefilm miete ogni anno migliaia di vittime. Anzi, i produttori di telefilm adesso studiano trame che possono indurre lo spettatore in dipendenza immediata. Forse anch'io in passato ho avuto i miei momenti di telefilm dipendenza, lo ammetto, forse anch'io. Come sei guarito? Ma ti sembra uno che è guarito? No, un pochettino, dai, non li guardi più i telefilm. Ma per forza, sono uscito con te la sera in macchina, siamo andati, la nebbia, ci siamo persi, siamo finiti in una fabbrica di polli. Come faccio a vedere i telefilm alla fabbrica di polli? E sono uscito per forza, come si esce da tutte le dipendenze, per forza. Comunque le nuove dipendenze sono un problema a cui non si è ancora trovata soluzione, perché sai, sono nuove. Infatti per le vecchie invece sì. Fumare si fuma, bere si beve, giocare si gioca, fornicare si fornica. Si fornica mica tanto, eh. Dico in generale. Sì, vabbè, ma in particolare direi che bacco e tabacco possiamo anche permetterceli, ma Venere no. Questa non è una sede episcopale. Episcopale. A differenza di Canterbury, nota sede episcopale inglese dove fu ucciso l'arcivescovo Thomas Becket nel 1170 dai emissari del re Enrico II. La fabbrica di polli. Musica freak, quella speziata di marijuana e talento, buttati gli assicchiati. A Canterbury c'erano i Soft Machine, i Caravan, i Gong, e poi gente come Pye Hastings, Robert Wyatt, Kevin Ayers, Richard Sinclair e David Allen, E poi tutti suonavano con tutti, I gruppi poi cambiavano nome e non si capiva più niente, però, Perché gli a Canterbury stavano bene, Al pub si facevano come dei cani, no? Poi si raccontavano storie da ridere e tutto diventava musica. Jazz, progressi, pop, rock, più o meno, Un po' come Zappa, Solo che è tutto meno corrosivo, Più hippie, è hippie, hippie inglesi, Poi però Robert Wyatt è caduto da una finestra ed è rimasto paralizzato, E lui suonava la batteria, E poi non è più suonata, Adesso suona le tastiere e le percussioni con le mani, E quindi con tutto questo non posso congedarmi se prima non vi ho fatto sentire un accenno di Canterbury Sound, Giusto uno spezzoncino per non rimanere nella pura teoria. E vai da Bonzi, Tipizzi, e vai da Bonzero, e vai da Bonzero, Riderero, Vabbè, Kappa, adesso però che te ne fai di un telescopio? Guardo le stelle. Siamo al coperto, Kappa, che stelle guardi? È vero. Shopping compulsivo, compri cose che non ti servono. È un modo come un altro per non impazzire. E oltretutto fa alzare il PIL nazionale, quindi... Però, scusa, fare beneficenza non ti darebbe lo stesso kick? Il kick della beneficenza? No, perché scusa, la beneficenza compulsiva... Forse, forse hai ragione, sarebbe l'unico tipo di dipendenza con la benedizione papale, tra quello, l'altro. Quello sicuramente, però sai che è la malattia di cui soffre Bono degli U2? Cioè, quando nasci cattolico di buona famiglia e diventi miliardario, poi ti viene la dipendenza da beneficenza. Ti senti in colpa per quello che ti sei guadagnato e cerchi di espiare dando tutto in beneficenza. È una bella cosa, intendiamoci, eh? Solo che poi gli amici cominciano a evitarti. Ah sì? Eh sì, gli amici rockstar, dico, perché sono 20 anni che rompi i maroni a tutti, che bisogna fare i concerti gratis per beneficenza, e nessuno vuole farli perché nessuno vuole suonare gratis, hai capito? Tu te lo vedi, Eric Clapton che suona gratis per qualcuno. E il fondo pensione? Chi lo riempie? Però Bono non sente ragioni. No, dobbiamo aiutare i poveri, i popoli sfortunati, dobbiamo diventare più poveri, stare male, stare tutti male. Non possiamo stare tutti bene e allora stiamo tutti male. E così via, hai capito? Bono. Sì. Dipendenza da beneficenza. Meglio dello shopping compulsivo e fa alzare il PIL di un povero Cristo o di più poveri cristi. O di Bono degli U2. Ma come di Bono degli U2? Sì, perché se Bono vince il Nobel per la pace, a furia di essere buono, Bono vince qualche milione di euro. Dov'è? E quindi diventa ricco di nuovo. Sì, e quindi gli ricresce, che tanto gli darebbe comunque in beneficenza. E sua moglie a quel punto lo pianterebbe per Marilyn Manson. Sono il pollo VIP, il very important pollo. Dico assolutamente sì, piuttosto che... Adoro essere un pollo, sono il pollo VIP e parlo come un pollo. La fabbrica di polli. Pollastri, cosa ci fate con un cannocchiale? È un telescopio. E vabbè, cannocchiale, telescopio, cosa cambia? No, sono due strumenti diversi, pollo. Il cannocchiale serve per vedere lontano, il telescopio serve per vedere... lontanissimo. Sì, ho capito, ma qui c'è poco da vedere. Infatti K l'ha comprato perché adesso ha la dipendenza da eBay. Anch'io, Ah, davvero? Adesso compro e rivendo vinili inutili, Come vinili inutili? Sì, robaccia tipo Laura Branigan, Mello Kendall. Ah, ma come funziona? Io vado in giro in fabbrica, no? A cercare vecchi vinili, no? Ah, beh, sì, ce ne saranno un sacco. E la gente non ascolta più che si è comprata negli anni 70. Ecco. E dico, vabbè, ma io vi svuoto la cantina. E mi porti via i dischi e va bene così. E poi dopo io vado su eBay, no? E poi li metto in vendita, E alcuni faccio le aste, E quella è la figata di eBay, no? Le aste. Perché magari trovo un vinile che non si trova più, che c'è gente che vuole pagare un sacco di soldi per averlo, e allora lo metti in asta. Allora stai lì, lo metti in asta, e quelli cominciano, no? Stai in asta per una settimana, e poi alla fine mi viene uno sbattimento e poi devo stare lì sempre a vedere se fanno le offerte, no? Vabbè, ma stai lì, non è che stai sempre davanti al computer, no? Dopo un po' sì, Perché? E poi c'è lo sbattimento. C'è lo sbattimento di vedere a che cifra si arriva. E poi c'è lo sbattimento che magari non lo vuole nessuno, no? E poi sai cosa faccio anche? Se un disco delle aste vedo che non c'è offerte, allora faccio un'offerta da solo, no? Siccome sono registrato con due o tre nickname, faccio un'offerta da solo e faccio montare la cifra, no? Magari c'è uno solo che fa un'offerta e mi rimane basso, quello mi offre 2 euro. E io rimango lì con 2 euro sul gobo e basta. Allora no, io con l'altro nickname faccio un'offerta e così lui sale e così faccio montare il prezzo, sono mica qua per far beneficenza io, sono mica come Bono, Che cosa succederà adesso? Le nuove dipendenze mineranno alla base le menti migliori della nostra generazione? Il mondo sarà regolato dalle dipendenze che le multinazionali riusciranno a installare segretamente nei cervelli degli abitanti della Terra? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo manipolabile allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude. Fabbrica di Polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. E poi c'è lo sbattimento che magari non lo vuole nessuno, no? E allora i vinili mi rimane sul gobbo. Io ero fatto un colpaccio, E poi ho fatto 1.000 euro con un disco. Ma chi è che ti ha dato 1.000 euro con un disco? Non lo so, io non so chi compra, E poi tra l'altro era tutto rovinato, tutto rigato,